Allora, buonasera a tutti, iniziamo con un leggero ritardo, ma inevitabile per la giornata, con la sessione che è dedicata a discutere di una serie di temi che sono diventati giorno per giorno di straordinaria attualità, con innanzitutto Matteo Grandi, che è l'autore di questo libro qui che vi faccio vedere, che è un libro che ha un anno di vita, ma che, come vedremo, ha degli elementi appunto di assoluta attualità, che si chiama Far Web, odio, buffa del bullismo, il lato oscuro dei social. Quindi un festival che parla di corrispondenze, diventa, che anche di corrispondenze abbastanza antiche, diventa interessante capire che tipo di corrispondenze si evolvono attraverso il web e perché Matteo Grandi ha scritto questo libro e quali spunti ci lascia. Ne parleremo, io cercherò un po' di moderare, ne parleremo oltre che con l'autore e anche con Antonio Pavolini, che è un saggista esperto, poi lui ci aggiungerà altro sulla sua attività di questioni che riguardano appunto l'economia digitale e i diritti digitali, con Giuseppe Granieri, docente all'Università di Bologna, autore di diversi libri proprio sui temi dei diritti, della democrazia digitale, della sociologia digitale e così via, che da diversi anni si occupa appunto di riflettere sull'evoluzione, diciamo così, della società sotto diversi profili, anche dal punto di vista dei diritti degli individui. Allora, io penserei di fare in questo modo: noi abbiamo i tempi un po' più contingentati, ma cercheremo comunque di fare una discussione, per quanto la discussione è molto complessa. Io darei prima la parola all'autore, in modo tale che introduca gli elementi fondamentali, partendo dalla domanda di cosa l'ha spinto a scrivere poi questo volume, e poi organizzerò un po' di discussioni. Io mi chiamo Antonio Micita, sono docente di politica economica alla Sapienza di Roma, ma per qualche tempo ancora, assieme al professor Morcellini, che ringraziamo perché ha avuto l'idea di questo panel, commissario dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni. Quindi mi riserverò soprattutto, oltre a fare delle domande all'autore e gli esperti che abbiamo qui, mi riserverò alla fine di dire in che senso un'autorità per le garanzie delle comunicazioni, che è stata pensata 20 anni fa soprattutto per i media tradizionali, possa svolgere un ruolo anche rispetto al web, con quali ambizioni, con quali limiti, con quali regole o forme di autoregolamentazione, o semplicemente se devono svolgere un ruolo di cosiddetta advocacy, cioè di promozione, come stiamo in effetti facendo, anche di dibattiti presso il mondo privato e presso il mondo pubblico. Allora, io partirei dal dire brevemente che questo è un libro che ricostruisce, come dice l'autore, tra le parti del libro ricostruisce un'analisi del web. Adesso lui ci farà una sintesi dei punti fondamentali, ma già dal titolo Far Web ci dà l'idea appunto del Far West, di un luogo nel quale ognuno fa come vuole, c'è cioè il prepotente di turno, non ci sono regole, ma in realtà poi nel corso del libro fa vedere che lo scopo principale che ha in questo libro è quello di dare un'analisi, di fare proprio una fotografia ad un certo momento storico di dove siamo, di che cosa è successo, del perché succede, in modo molto interessante, anche diciamo così piacevole alla lettura, incastra quelli che sono i dibattiti fondamentali che poi ci sono anche nella letteratura di riferimento, che incrociano diversi ambiti multidisciplinari: il diritto, l'economia, la sociologia, le scienze politiche, ovviamente la comunicazione, mettendoli in una prospettiva anche di cronaca, cioè di quello che effettivamente è successo nel mondo, di quello che è successo in Italia, di come si è risposto a una serie di episodi che hanno anche riguardato in modo tragico determinate persone, sia come vittime, sia come, diciamo così, artefici di forme di aggressione. E più che concentrarsi in modo esplicito sulla questione, come dire, regolatoria, in realtà traccia le tre tematiche che spesso in questi dibattiti si incrociano, c'è la questione delle cosiddette ufre, cioè di notizie false, diciamo, in senso lato, poi avremo modo di sviscerare il tema, dell'altro pezzo che è l'odio sul web, o hate speech, come si può definire, e poi un altro tema che è sempre un tema interessante anche per le autorità, su cui c'è già una normativa un po' più avanzata, che è l'aspetto cosiddetto di cyberbullismo, che riguarda soprattutto forme di comportamento che riguardano i minori, sui quali, come dirò, anche l'autorità per garanzia della comunicazione svolge un qualche ruolo. Il mio scopo è quello di sviscerare alcuni temi, di superare anche alcuni, diciamo così, equivoci e anche nuovi dogmi che emergono, e poi se riusciamo anche a raccogliere nella parte finale qualche domanda dal pubblico, mi farebbe piacere. Allora Matteo, io ti chiederei brevemente di introdurci il libro e poi io inizio a fare un po' di domande. Grazie Antonio, buonasera a tutti. Partiamo dal titolo. Far Web contiene già nel titolo in realtà una provocazione, perché io sono convinto che quello che viene percepito oggi da molti come appunto un far web, come un luogo dove non esiste una regola, dove si può fare tutto quello che si vuole, dove vige l'assoluta libertà e anarchia, in realtà non sia così, sia appunto questa idea figlia di una falsa percezione. Però è un titolo forte, è un titolo che probabilmente sarebbe riuscito anche ad attirare l'attenzione, proprio giocando su questa percezione sbagliata. Ma da che cosa nasce questa percezione? È quello che mi sono chiesto nel momento in cui ho deciso poi di approfondire i temi della rete e i temi del libro. Oggi credo che uno dei problemi reali in questo dibattito sulle speech, quindi sul discorso d'oro, sulle fake news, su tutte cose che abbiamo sentito e risentito tantissime volte, letto sui giornali, ascoltato in televisione, in realtà tutto questo nasce da una percezione sbagliata che molti utenti hanno in rete di muoversi in una sorta di zona franca o di terra di nessuno. L'utente medio va in rete e ritiene che quella lì sia una sorta di bolla virtuale sospesa dalla realtà, sospesa dalla legalità, dove si può dire tutto quello che ci passa per la testa perché tanto non ci sono conseguenze. Questo meccanismo, secondo me, è innanzitutto figlio di due aspetti. A monte di una mancanza di educazione generale, ovvero se io vado in rete e inizio a offendere, a insultare, ad aggredire donne, neri, omosessuali, a pubblicare foto delle mie ex, magari nude, eccetera, eccetera, credo che manchi qualcosa proprio dal punto di vista di educazione assoluta. Poi c'è un secondo livello. C'è una mancanza di educazione digitale, ovvero la incapacità di comprendere e di capire che quelle cose là in realtà non è vero che le sto facendo in una bolla sospesa dalla realtà dove non esistono conseguenze. Io le sto facendo semplicemente su un mezzo diverso da quelli a cui siamo stati analogicamente abituati, ma sono azioni che hanno tutto per tutto delle conseguenze. Quello che noi siamo stati portati a definire il tempo virtuale non è virtuale, è reale. Cioè tutto quello che succede online in realtà sta succedendo nella realtà. Scusatemi il bisticcio di parole. Riuscire a capire questo, riuscire a fare questo salto di qualità, riuscire a capire che reale e virtuale, secondo me, è il primo passo per uscire anche dagli schemi di una narrazione che invece è totalmente fuorviante, perché noi sentiamo e leggiamo titoli di giornali che ripetono il web cattivo, la rete bugiarda, questa sorta di personalizzazione, internet che odia, internet non prova sentimenti, internet non odia. A odiare sono gli utenti che usano internet, che magari attraverso internet urlano il loro odio in maniera più forte e più violenta. Umberto Eco, una massima famosissima, che poi negli ultimi anni è stata presa e ripresa da tantissimi giornali, articoli, eccetera, eccetera, diceva che internet in realtà ha dato voce alle giovani vicine, cioè quelli che una volta risultavano davanti alla televisione, magari chiuso in una rete di casa o a parlare con altri amici, oggi in rete hanno una terra. grande pubblico, che potenzialmente è un pubblico infinito, perché qualunque cosa noi scriviamo in rete, magari la leggono in due, ma potenzialmente potrebbe essere letta da più, perché poi le dinamiche, i meccanismi per cui uno scende, una sparata, un insulto, un futuro si diventa in qualche modo virale, sono spesso ripostati. Quindi in potenza tutto quello che scriviamo in rete può diventare virale. Questo implica poi il secondo livello di ragionamento, quello della responsabilità, cioè se noi riuscissimo a capire che tutto quello che scriviamo in rete non solo rimane, ma a volte tutto la ritorna, forse potremmo avere un approccio più responsabile nel momento in cui ci dobbiamo distinguere le scorci. Ovviamente tutte queste cose che raccontate così in maniera molto superficiale, sembra qualche modo anche di semplice lettura, poi hanno una volta tutta una serie di sottotemi incredibili, perché allora basterebbe dire, allora, se tutti ci mettono una faccia, non un cognome, cancelliamo l'anonimato dal web, probabilmente con un colpo di bacchetta magica abbiamo sconfitto il tema dell'odio etico. Questo è falso per due motivi. Il primo motivo è che in realtà oggi l'odio sta diventando a tutti gli effetti una valuta, e quindi sempre più spesso le persone in realtà ci mettono proprio nome, cognome, faccia, e sono contente di raccogliere quello che sembra in termini di discorso d'odio, perché è diventato anche un modo per ricevere consenso, l'odio, odiare, farsi vedere, creare il nemico, istigare certe forme di violenza. E poi perché in realtà l'animato non è soltanto cattivo, poi se volete possiamo approfondire questo tema e capire perché, ma ci sono anche delle forme di tutela dell'animato che in rete hanno la loro ragione d'essere. Quindi quando un giornalista, che per esempio studia tantissimo come recommendare, fa le sue crociate l'arma bianca contro l'anonimato in rete, per realtà mi sto la bocca, perché sull'anonimato, quando sono l'anonimato online, capisco che è un tema un po' delicato, però bisogna guardarlo attraverso tutta una serie di angolazioni. Non basta dire obblighiamo la gente a iscriversi su Facebook, su Twitter, su Instagram con il proprio nome e cognome e risolviamo il problema. Poi ripeto, se volete torniamo a mencionare. Chiudo dicendo che il tentativo poi che io ho fatto è stato quello di analizzare tutti questi elementi che oggi in qualche modo inquinano il web e di conseguenza il dibattito pubblico, come odio, istigazione alla violenza, bufale, fake news, eccetera, eccetera, con uno sguardo laico, cercando di distaccarmi il più possibile da determinati temi, soprattutto anche da una serie di notizie che magari io stesso prima di iniziare questo lavoro potevo avere, e cercare poi di arrivare a una serie di conclusioni che ovviamente non hanno la pretesa di risolvere il problema, ma possono in qualche modo essere dei piccoli sassolini, un po' alla pollicina nel bosco, per cercare di orientarsi verso quella che dal mio punto di vista è oggi una delle poche strade che si possono veramente percorrere, e che poi torno al punto di partenza, è quella dell'educazione digitale, l'educazione digitale di cui oggi abbiamo veramente bisogno. Applauso, grazie. Allora, faccio qualche altra domanda e poi passiamo. Allora, una su questo tema dell'animato. Dunque, intanto, giustamente, una parte interessante che c'è nel libro, giustamente Matteo distingue tra i diversi social, perché anche quando parliamo dei social non sono tutti uguali. Twitter tu lo definisci più un una autoselezione degli intellettuali che discutono fra di loro e che si fanno poi, diciamo così, una serie di battaglie all'ultimo tweet, anche per, sebbene, come tu giustamente aggiungi, capace di selezionare e autoselezionare i gruppi, ma la vedo come un fenomeno un po' più autoselezionato e limitato, il che si sposa anche con quello che noi sappiamo. Tra l'altro abbiamo pubblicato come autorità per il secondo anno, non so se l'avete avuto occasione di vedere, ma tutto uno studio sull'utilizzo del social network in Italia, oltre che quello che facciamo normalmente sui media tradizionali. Ed effettivamente viene fuori che c'è una differenza anche in termini di generazioni e, diciamo così, profili curriculari tra chi usa Twitter e chi usa Facebook. Facebook è molto più popolare, ma Facebook è anche anziano, nel senso che paradossalmente i giovani sono fuggiti, diciamo così, da Facebook, forse perché dopo che i genitori ci erano entrati, comunque usano altre piattaforme che magari sono molto più attratti da contenuti, da video, che poi hanno anche altri, una serie di altre problematiche, ma è interessante capire che c'è un tema che non riguarda ovviamente soltanto l'Italia, ma quando parliamo di educazione forse non è soltanto un'educazione che siamo abituati per forza a pensare sempre che debba essere fatta alle nuove generazioni, ma è forse un'educazione di chi è arrivato troppo presto, diciamo così, ai social, venendo da un'altra cultura, che è appunto di corrispondenza non virtuale, e che probabilmente forse ci è arrivato con una velocità e con un precipitato tale per cui forse più di come farebbero nuove generazioni è più disposto a credere, diciamo così, a delle fake, o più disposto a fare gruppi, più disposto a sostenere i discorsi di hate speech e così via. Questa è una domanda che ti faccio, perché se è così allora l'education non è soltanto l'education di scuola e quindi di nuove generazioni, ma diventa un'education, un discorso pubblico culturale che in qualche modo dobbiamo fare anche a quelli della nostra età, un po' più, diciamo così, grandi di noi. Questo è il primo punto. Sempre sull'anonimato, l'altro tema però è ovviamente che proprio abbiamo visto ieri, l'altro ieri, il New York Times ha pubblicato questo, diciamo, articolo anonimo di un soggetto che sta a Casa Bianca e che dice qui stanno facendo resistenza in realtà contro Trump, e quindi questo è un esempio tipico di come l'anonimato può in realtà servire, diciamo così, alla libertà di espressione. Però in mezzo cioè, sono tante cose che si possono fare, per esempio quello di osservare il comportamento del soggetto che sta anonimo, cioè un conto è dire ex ante, faccio una regola per cui tu non puoi stare sul web o dove vuoi, cioè qualunque social, se non dichiari esattamente chi sei, ma d'altra parte si può invece dire che se usi questa forma di anonimato, non in realtà per, come dire, avere dei comportamenti con quelli che siano, ma per seguire una strategia di disinformazione, di attacco mediatico, di hate speech e così via, allora forse lì qualche intervento si può fare, che ne pensi? Allora, parto dal fondo per un po' di altri argomenti. Quello che tu hai appena dipinto è in qualche modo quello che gli osservatori definiscono il cosiddetto anonimato protetto, cioè una forma di anonimato in qualche modo, come dire, attutita, attenuata. Io credo, intanto faccio un passo indietro e dico che, come stavi sottolineando, l'anonimato oggi ha una sua ragione d'essere, cioè il motivo per cui la premessa con la quale nasce il web, facciamo due di passi indietro, ma la premessa con la quale nasce il web è proprio quella della libertà. Il web nasce come mezzo libero. Dentro a questo mezzo libero, a un certo punto l'anonimato è diventato una forma per una serie di soggetti per fare delle denunce che altrimenti non avrebbero potuto fare, perché l'anonimato ha permesso di fare anche delle denunce importanti, e la storia recente ne è piena, senza incorrere in ritorsioni, perché chi anche dentro la Casa Bianca direbbe noi stiamo facendo resistenza mettendoci faccia, nome, cognome, e sapendo che il giorno dopo sarebbe quantomeno messo alla porta, se non altro. Allora, io credo che il fatto che ancora oggi in realtà esistano delle resistenze più che giustificate alla linea di pensiero cancelliano o animato, che secondo me nasce da questo. Dopodiché posso essere in parte d'accordo nel dire però attenzione a non abusare, perché è ovvio che se poi io faccio un profilo anonimo con il solo e esclusivo intento di diffamare, insultare, istigare all'odio, offendere, diffondere fake news, è ovvio che io mi sto infilando in una maglia del sistema che è quella della libertà, che è quella del fatto che mi sia concesso anche di avere un profilo anonimo, ma lo sto facendo con finalità assolutamente sbagliate. Allora lì si potrebbe e secondo me se ci si arriva, però ci si deve necessariamente arrivare a livello di diritto internazionale, cioè non è una cosa che può essere in qualche modo delegata alle giurisprudenze dei singoli paesi, si può arrivare a una forma di come dire, tutela a scaglione dell'anonimato, perché c'è una tutela massima, però poi di fronte ai reati, se c'è un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, si può arrivare in fronte, quindi tu in qualche modo devi lasciare la tua traccia identitaria quando ti iscrivi, quando fai un profilo, alla quale l'autorità giudiziaria, ma solo l'autorità giudiziaria, possa eventualmente decidere di risalire nel momento in cui. Poi passiamo a voi. Ti faccio questa domanda perché sembra ieri, stamattina, cioè io l'ho vista stamattina, ma sarà caduta ieri, Twitter ha ufficializzato con un suo messaggio che ha definitivamente cancellato tutti gli account del soggetto che non ricordo come si chiama, che fa le War Rooms, che era stato sospeso varie volte, e quindi lì sono più discorsi di hate speech, di fake news, di soggetti produttori di bufale, ma anche e soprattutto poi ci torno su questo, diciamo così, i discorsi di odio, e la motivazione breve che ho potuto leggere, poi adesso mi riservo di studiare meglio il caso, è che Twitter ha detto, beh, dopo ripetute sospensioni abbiamo deciso di sospendere tutti gli account. Ora, perché dico questo? Ci sono due questioni, parto dalla seconda. La seconda è che tu chiudi, ma dopodiché si può riaprire. In questo caso è diverso perché c'è una persona conosciuta e quindi, diciamo, non è tanto far veicolare le notizie, ma continuare con War Rooms. E questa è la prima domanda. Perché non possono essere invece questi soggetti, con le loro politiche, a, come dire, assumersi la responsabilità, essendo come dei soggetti privati che se hanno una, come dire, loro decalogo in qualche modo poi lo applicano, e lo applicano con prudenza, perché adesso non, ripeto, non ho letto per intero tutta la storia, però già il fatto che si dica abbiamo chiuso degli account dopo una serie di warning, una serie di cose che fanno parte della nostra policy, anche questa è una strada che si può seguire. Tu l'affronti nel libro, e poi tra l'altro dopo il libro qualcosa in più hanno annunciato, diciamo così, social, però tutti sappiamo che c'è un'efficacia che usciti alcuni studi e esperimenti di Carta di Roma che in qualche modo dimostrano che c'è comunque un ritardo per applicare queste politiche. Allora ti chiedo perché non possono essere questi stessi social con le politiche che hanno annunciato, gli obiettivi che hanno annunciato, che ripetutamente vengono interrogati fino a 3 giorni fa dai congressi, in particolare al congresso americano, a cercare di fare qualcosa che fino ad oggi non hanno voluto fare sotto il profilo, sotto, diciamo così, il cappello, io non sono un editore, e che però stanno capendo che in qualche modo devono fare autonomamente. Non lo faranno mai, non è nel loro interesse anche economico farlo, è più rischioso che sia un privato di un grande social a decidere autonomamente queste politiche, per quanto in trasparenza, e quindi è meglio che sia un soggetto pubblico, o al contrario, che un soggetto pubblico che sia un soggetto che lo fa per motivi di esercizio del potere, quindi tanto vale, io posso essere cacciato in fondo da un social, ma questo non impedisce che posso esprimermi in tanti altri social, quindi lasciare al privato questa iniziativa. Allora, la tua domanda in realtà mi riporta al discorso che facevo all'inizio, all'assenza di regole. Partiamo da qua. Ho iniziato dicendo che l'assenza di regole in realtà è una falsa percezione. Perché è una falsa percezione? In realtà perché le regole esistono, cioè nel momento in cui io mi muovo online, non mi sto muovendo su Marte, non mi sto muovendo appunto in zona franca dove non c'è, dove non esiste legalità. Le regole esistono su due ordini di livelli. Innanzitutto ci sono le regole della legge ordinaria, cioè io rispondo comunque in rete a tutto quello che è il codice civile e il codice penale. Un illecito commesso online vale tanto quanto un illecito commesso online, anzi addirittura c'è una giurisprudenza in alcuni casi che ti dicono che un illecito commesso online può avere anche l'aggravante del pubblico, della per cui le regole ci sono, non solo ci sono le leggi che valgono fuori dentro la rete, quando ci scriviamo a Facebook, a Twitter, a Instagram, in realtà accettiamo una serie di condizioni che generalmente non diciamo, ma là dentro c'è anche scritto che cosa è tollerato e cosa non è tollerato, quindi le speech non tollerate, discorso d'odio, istigazione alla violenza, discriminazione e quant'altro. Ora, il punto vero, cioè l'uomo della strada si chiede di fronte a questo cappello, ma allora perché nessuno fa niente? In realtà non è vero che nessuno fa niente, diciamo che si fa comunque poco, purtroppo poco. Sulla strada della legge ordinaria, tendenzialmente l'idea di impunità passa per una serie di motivi. Perché? Perché poche persone hanno voglia di muovere una querela per un insulto subito in rete, se vuoi anche meramente per motivi economici, vuoi perché diventano battaglie burocratiche che sai quando cominciano, non sai quando finiscono, vuoi perché i tempi della giustizia italiana sono già di per sé lentissimi, quindi i fatti che vengono soltanto a intasare ulteriormente una macchina che già di per sé è abbastanza lenta. E allora perché, secondo la domanda, non fanno niente come ci dicono poi gli osservatori, carta di Roma, eccetera, perché non fanno niente neanche le stesse piattaforme? Perché Facebook, che ha un suo codice, ha delle sue normative, ha una sua policy, non fa rispettare questa policy? Allora, questa secondo me è una delle vere domande che ci devo fare, una domanda che in realtà ha anche una sua risposta. Voi sapete come funzionano i controlli su Facebook, se è un algoritmo, se funziona su segnalazione, se sono delle persone. C'è qualcuno che lo sa o? Allora, Facebook, i controlli di Facebook funzionano attraverso un ufficio di controllo fatto di persone che hanno addosso. Quindi quando si va a dire l'algoritmo in realtà ha una funzione di filtro iniziale su alcune segnalazioni molto grande, perché di fatto Facebook viene, diciamo, la policy viene fatta rispettare da un ufficio fatto di persone in carne ed ossa che valuta tutte le segnalazioni che arrivano, ok? Ora, il problema qual è? È di doppia cintura. Il primo è che spesso le segnalazioni che vengono fatte rispetto al discorso d'odio finiscono sotto gli occhi di controllori che non sono della madrelingua del denunciante. Perché? Perché diciamo che alla voce Italia sono destinate top persone. Di quelle persone ce ne sono un 60% italiano madrelingua, magari un 40% che italiano lo conoscono ma non sono madrelingua. Ora, già in questo può essere una sfumatura, può essere una parola che ha un'accezione che magari non viene compresa, un dialetto, cioè, comunque questo in qualche modo determina una certa rigidità nel controllo. Ma poi c'è un motivo molto più semplice. Questi sono uffici sottodimensionati. Oggi è stato calcolato che un addetto ai controlli di Facebook ha in media 10 secondi per valutare ogni singola segnalazione. Poi vedete che in 10 secondi, se io ti sto segnalando magari un pezzo di 5.000 battute, è letteralmente impossibile riuscire in 10 secondi. Perché? Perché sono sottodimensionati rispetto alla quantità di segnalazioni che arrivano. E se le cose non cambiano, se non c'è innanzitutto un investimento su questa forma di controllo, secondo me diventa molto molto difficile auspicare che poi queste cose migliorino. 10 secondi per pubblicare. Questi 10 secondi poi in realtà generano a volte dei mostri incredibili, perché magari qualcuno si ferma una parola. E allora io sento grato a questa segreta, leggo la seconda lingua, approccio e blocco immediatamente il commento. Magari invece io stavo scrivendo, stavo dentro qualcuno, però tutto è stato il tempo di approccio. Però l'addetto ai controlli in 10 secondi, quella cosa là non la riesce ad analizzare, a capire, e vedo una parola che mi salta agli occhi, allora. Allora, capite che tutto il meccanismo dei controlli è gioco. Qualcuno obietta, ma allora potremmo ricorrere all'algoritmo, mettere una serie di parole per le fisse e tu se usi quelle parole sai che il tuo posto è automaticamente bannato. Questa sarebbe un'operazione peggiore ancora della stampa, come si suol dire. Perché? Perché cosa succederebbe? Facciamo un esempio, la parola legge. Ammettiamo che la parola lingua entra in quel listo e tu non la puoi usare. Allora, a parte che se e comunque non hai arginato il problema, perché io posso decidere di offendere, insultare, abbiamo raccolto un po' di questioni e poi dopo torniamo a te sui diritti, cioè sulla questione della libertà di espressione e così via. Per esempio, sulla, in inglese, nella tradizione dei media mainstream americani si dice N-word, per cui io so che c'è ma non la dico. E poi ci sono anche una parte significativa della cultura afroamericana che invece la rivendica, insomma la cosa è molto più complessa. E torniamo sempre lì, cioè torniamo sempre alla questione dei diritti, della libertà di espressione, e, diciamo, delle tensioni, di un punto che continuamente Matteo Grandi ripete nel libro, cioè la relazione tra online e offline e così via. E rispetto a queste prime questioni, come la mettiamo? Sapendo, come tu varie volte hai scritto, che noi abbiamo una tradizione europea culturale e giuridica diversa da quella americana. E questo è un altro aspetto importante, perché in realtà noi, quando facciamo questi dibattiti in Europa, abbiamo molto spesso l'eco di come se noi avessimo anche noi il primo emendamento, mentre noi il primo emendamento non ce l'abbiamo. Abbiamo delle cose che ci somigliano, abbiamo anche alcune cose in più, come per esempio la centralità che acquista il rispetto della dignità della persona, e noi ce l'abbiamo perché siamo in Italia, perché siamo stati in Europa, siamo stati in Germania, siamo stati in Austria, con delle costituzioni che hanno, nel rispetto della dignità della persona e rispetto al discorso d'odio, un fondamento purtroppo storico, che non è caso che produce quella fake news che viene chiamata come movimento negazionismo. Cioè abbiamo una storia dell'età culturale, come dire, molto pesante, eppure ragioniamo su certe forme di negazione media, che sono anche importanti negli Stati Uniti, come se fossimo, diciamo così, americani. Mi pare che fosse l'essere che ha detto che con internet abbiamo esportato il primo emendamento del mondo, no? Quando appunto internet la vedevamo all'inizio appunto come l'affermazione della libertà. Con tutti i temi che abbiamo messo in ballo stasera, si potrebbe fare una conferenza per ogni tema, quindi mi scuso se sarò brevissimo anche provo ad affrontare per concetti. Innanzitutto abbiamo un problema di linguaggio, cioè noi ci troviamo esattamente, non so se qualcuno di voi ha letto un bellissimo libro di Tolkien, se non lo avete fatto, fatelo, questo è l'America. Lui racconta la storia dell'arrivo dei conquistatori nel nuovo mondo, che si trovano di fronte ad uno spazio completamente diverso da quello europeo, con un orizzonte completamente diverso, popolato da una fauna completamente diversa e con una vegetazione completamente diversa. Era tutto assolutamente nuovo, e la cosa carina in tutto questo è che non c'erano le parole per chiamare le cose. Cioè, per cui si andò nell'associazione Cosa Nota e si cominciò a chiamare le cose in base a quello che assomigliava. Noi ora stiamo facendo questa stessa cosa su un piano culturale, non su un piano geografico o faunistico. Semplicemente noi ci troviamo a vivere una grandissima discontinuità. Non sarò qui a fare il pippone sulle altre discontinuità che ha avuto la storia della cultura romana, però stiamo vivendo una discontinuità culturale molto molto molto forte, con la differenza che la stiamo vivendo nell'arco di una sola generazione. Cioè non abbiamo più, la stampa ha prodotto delle differenze nelle nostre culture, la struttura ugualmente, però ci sono voluti secoli perché queste differenze divenissero. Senza la stampa non avremmo il pensiero scientifico, senza la struttura non avremmo la democrazia e così via. Noi invece stiamo vivendo un cambiamento tecnologico che è talmente veloce che non ci permette di dare autonomia alle cose. Con Antonio, ovviamente con tutti voi, abbiamo vissuto diverse fasi della storia di internet. La prima, probabilmente la più bella, quella che eravamo più tutti molto di meno, perché poi considerare un progetto di quantità ha una sua rilevanza, però eravamo molto contenti di quello che stavamo scoprendo. E ci davamo un'educazione tra di noi, c'era un principio di correzione, un termine alla rete, che si è smarrito con l'interno della scala, con un aumento esagerato della scala che abbiamo oggi. Quindi abbiamo un problema di nome, Fake news, secondo me, è uno di quei termini che ci dovremmo riflettere, cioè nel senso che capire effettivamente se sono fake news o non sono fake news. Però perché ho fatto la promessa di ricordare la palla alla donna, quindi ne parliamo dopo. Un altro elemento strano è il concetto di hate speech. Io pur vivendo quasi sempre dentro un treno o in giro o cose del genere, mi sono ad abitare in un piccolo borgo di 7.000 abitanti, no? Se voi entrate in un bar, sentite le occhietti sedute davanti a quel bar, fondamentalmente non avete nient'altro che una dimostrazione di hate speech. La cosa che succede è che quello hate speech non è difficile. Mentre invece, altro tempo, 2006, chiaro, però il concetto è che la gente che è in internet è la stessa gente che c'è fuori. I comportamenti che hai in internet probabilmente, con qualche differenza che esamineremo, sono gli stessi che è fuori. Quindi c'è alla base un problema che secondo me si può raccontare in modi diversi, tutti in modi complementari, nessuno escludo un altro. No, però fondamentalmente io partirei dal concetto che la gente che troviamo in rete è la stessa gente che troviamo in strada. Poi c'è questa cosa, che internet è comportamento, la ogni tecnologia è comportamento. Il che significa che ora noi stiamo cominciando ad abituarci a vivere in un mondo che è molto diverso da quello per cui ci hanno educato. Cioè noi tutti siamo stati educati con la cultura della carta, odori, dello sguardo negli occhi, del sorriso, del feedback. Questo che io chiamo gap sensoriale è una cosa che su internet molto spesso è fuorviante anche nei comportamenti. E questo, guardate, è un problema di educazione, perché anche la fake news, cioè, rovesciando il concetto, non è il problema in sé della fake news, perché le bufale, i pettegolezzi stanno sempre girati per una scala minore, che sebbene non pubblici, però c'è in qualche modo una certa educazione a capire, di conoscere, di andare a verificare. Internet da questo punto di vista ci porta diverso con le notizie, cioè internet ci permette di verificare le fonti, cosa che invece la realtà non ci permette di fare. Se io incontro lei e le racconto una storia, per lei la storia che le sto raccontando, l'unica cosa che esiste, non ha modo di verificarla. Se io leggo una cosa su internet, sono educato all'informazione, con la possibilità di andare a verificare. La possibilità di andare a verificare è una di queste cose che fa parte di un concetto che ormai è abbastanza trito ma poco applicato, che è quello dell'information literacy, cioè dell'educazione e navigazione all'interno dell'informazione. Mi credete che rispetto allo scenario che ha descritto Matteo, che io vi invito a leggere, io lo sto affrontando da un punto di vista rovesciato, dal punto di vista dell'individuo, che si trova dentro un ambiente che deve cominciare a continuare a riconoscere. Ed è un ambiente che cambia con una velocità talmente rapida per cui noi saremmo costretti per tutta la vita, lo stiamo facendo da sempre, perché quando noi abbiamo cominciato a fare internet non esisteva la letteratura su internet, quindi noi siamo stati i primi a raccontare internet, quindi stavamo dentro, quindi qualcuno lo doveva fare, qualche volta, perché a noi nessuno ci hanno insegnato a usare il computer, noi abbiamo parlato di avanti questo C, due punti, slash, poi noi stessi abbiamo cominciato a imparare dai ragazzini più giovani e così via, però è un ciclo sempre molto veloce di cambiamento, perché diceva Weinberg, la rete ha una caratteristica stranissima, l'innovazione può durare in qualsiasi momento, in qualsiasi modo della rete, perché noi non riusciremo mai ad avere il quadro coordinato e preciso di quello che sta succedendo. Semplicemente potremmo scrivere dopo dei fenomeni che vediamo accadere, oppure con un po' di capacità previsionale, se impariamo ad aiutare le persone a leggere le tendenze, a usare, cioè ad avere, a possedere le categorie interpretative, quindi passo sulla roccia tecnica, però cioè se ti abituiamo a possedere le categorie interpretative, vi aiutiamo. Se vi raccontiamo l'aneddotica o i meri fatti, questa cosa serve molto meno. Quindi la vera domanda qual è come costruiamo nelle nuove generazioni, anche nelle generazioni che attualmente vivono da nuove generazioni, questi fenomeni, perché cioè io non vero migrante digitale non è un migrante anagrafico, è un migrante culturale, cioè chi ha gli strumenti per poter valutare quello che è intorno non è un migrante digitale. Chi ha magari 18 anni, 20 anni, come spesso accade nei miei studenti e tutto il resto, che però nasce in situazioni, in contesti in cui non ci sono gli stimoli, non ci sono le capacità critiche, non ci sono le comunicate, tutto il resto rimarrà sempre un migrante digitale, perché tenderà a dare questa cosa. Il problema è, detto in maniera poi molto semplice, chi deve assumersi oggi il compito di questa educazione? Cioè noi educati saremmo un popolo migliore, no? Per questa è l'ultima cosa che dovremmo stare facendo tutti quanti nel cervello. E se guardate che non c'è speranza, no? Noi avremo l'internet che ci meritiamo. L'internet siamo noi, siamo le persone che lo utilizzano, siamo la capacità di essere brave persone, persone intelligenti e persone capaci di creare valore utilizzando uno strumento. L'esempio che volevo farvi nel 2006 era quello del primo caso in cui è venuto fuori il discorso, diciamo, ancora in un sintomo molto leggero, che proprio ha portato al cyberbullismo, al speech, tutte le cose, a tutti i termini che oggi sono diventati di moda, e fu quando nacque YouTube, e con YouTube vennero per la prima volta pubblicati i video di Enzo Bullismo a scuola. Questa cosa non fu negativa, cioè la prima reazione del governo di allora fu chiudiamo l'internet, cioè quello di tutti quanti che facciamo oggi, chiudiamo l'internet, no? Diventa una cosa più o meno che tutti quanti usano. Quello che era successo in realtà è che internet aveva messo in agenda nei temi di allora una cosa che era sempre esistita, tutti quanti sono visti qui a scuola da sempre. Senza internet non sarebbe emerso con prepotenza questo fenomeno e non lo avremmo affrontato come società. Quindi c'è anche un lato positivo per guardare tutte queste cose che internet ci dà. Però dobbiamo essere educati a farlo, la scuola non può farlo. Perché se la scuola provasse a formalizzare il racconto dell'internet di oggi, nel 2018, probabilmente nel 2025 lo troveremo nelle nostre scuole. Cioè chi lo fa questo ragionamento, chi si assume questo compito di educazione, probabilmente chi ha il dovere, da un lato dobbiamo anche usare lo strumento, la potenza dello strumento per i propri obiettivi, ma dall'altro anche quello di svolgere un ruolo sociale. E questa cosa è in qualche modo l'intero ecosistema dei media, che non è solo internet, ma che comincia ad essere i cosiddetti old media, che sono i giornali, che è la riscoperta della lettura. È la riscoperta della lettura, cioè un sistema integrato che tanto un po' di questo spiegare. Sottoscrivo ogni singola parola, e devo dire che ho apprezzato tantissimo questo intervento. Aggiungo una postilla e dico che sono d'accordissimo anche a sostenere che non è un compito che può gravare sulle spalle della scuola, anche perché rischia di diventare o una narrazione sbagliata o una metanarrazione distorta. Però la scuola invece un compito, secondo me, dovrebbe recuperarlo, e che si sta perdendo proprio per andare invece a inseguire l'idea di tappare queste falle, come il cyberbullismo, come il tentativo di raccontare il web, perché in realtà forse il web conosce meglio di chi lo sta raccontando. Io credo che la scuola abbia totalmente perso, e poi ci si rifà appunto all'information literacy, ha completamente perso la capacità di educare allo spirito critico. Cioè, una volta noi avevamo una scuola che ci portava a una forma di analisi della realtà basata anche sulla situazione critica, sulla capacità di non credere tutto quello che leggevamo, di informarci di più, di avere una serie di conoscenza. Completamente. La scuola questo lo potrebbe fare, cioè smarcandosi dai tempi del web, una forma generalizzata di educazione allo spirito critico, di riscoperta allo spirito critico, secondo me sarebbe fondamentale. C'è una cosa che io sto ripetendo da anni, infatti non mi hanno fermato, non sono più neanche a sentire, è che questa, è che l'information literacy oggi fa parte dell'alfabetizzazione di base. Cioè dobbiamo cominciare a capire che non possedere l'information literacy oggi è come non saper scrivere o leggere negli anni 50 o 60 del secolo scorso. Chiediamo la foto. Beh, visto che stiamo disintermediando il commissario della Giocomo, doveva farci le domande, e che comunque ringrazio per averci invitati qui in questo bellissimo testo. Ringrazio anche il professor Porcellini che ha pensato a questo momento, e mi unisco naturalmente alle parole di elogio del libro di Matteo, che è un rarissimo esempio di veramente saggio pop, perché anche quando io e Giuseppe proviamo a scrivere libri su queste cose, finiamo drammaticamente per parlare a un pubblico di addetti ai lavori. Matteo ha capito che questi sono temi che devono arrivare a tutte le persone, forse anche perché è un autore televisivo, quindi sa come si parla a tutte le persone, e riuscito a fare qualcosa di drammaticamente difficile. Quindi consiglio a tutti la lettura di questo libro. Siccome sono state dette cose estremamente dotte da punti di vista molto molto preparati e strutturati, abbiamo anche la persona che conosce tutto il contesto normativo del mondo, abbiamo il sociologo della comunicazione, a me rimane veramente la parte più bieca, forse, per dare un'ulteriore chiave di lettura a tutta questa cosa che sta succedendo, che tutti continuano a chiamare rivoluzione digitale, come se fosse una cosa che si fa schioccando le dita, e come soprattutto se fosse qualcosa di cui oggi possiamo vedere l'esito, no? È una cosa velocissima e ora vediamo i problemi e quindi prendiamo posizione e diamo dei giudizi. Secondo me, perdonatemi, non è successa nessuna rivoluzione, siamo all'inizio di una lunga e molto più lenta transizione. E quello che stiamo vedendo adesso sono i problemi del vuoto e non i problemi dell'esito. Il vuoto di inadeguatezze di noi come individui, che non abbiamo i codici, che non abbiamo gli strumenti per capire questo nuovo mondo, informazione in divenire, inadeguatezze di anche tutto il mondo che dovrebbe interpretarlo alla luce della propria appartenenza a una, perdonate il termine, casta professionale, quindi il mondo dei media dovrebbe capire questo nuovo media e sono tutti subito pronti a tracciare così gli affreschi su questo nuovo esito. L'esito non c'è. Io addirittura contesto la definizione di web 2.0, secondo me siamo davvero al web 1.5, quando già ormai per scrivere libri, per fare conferenze bisogna parlare di 4.0, di 5.0, siamo drammaticamente indietro, ok? Perché l'esito di queste cose, se la nostra generazione ci permetterà di vederlo, richiederà decenni, esattamente come ha richiesto decenni la precedente rivoluzione più o meno della stessa portata, cioè l'invenzione della stampa a caratteri mobili, che portò degli sconquassi religiosi, politici, che erano dovuti soprattutto al fatto che è stata fatta una guerra senza quartiere di tutto quello che era il mondo conosciuto di allora, soprattutto la Chiesa, soprattutto certi poteri costituiti, a questa novità. Il dramma, i morti sul campo erano i morti di quella guerra, non erano i morti dell'esito di quella rivoluzione, in cui quindi i benefici si sono visti in termini, per esempio, di alfabetizzazione e anche di democratizzazione della conoscenza, dell'accesso alla conoscenza, si sono visti 70-80 anni dopo. Nel frattempo ci sono state guerre di religione sanguinose, perché poi è tutta un'operazione quella che portò a fenomeni epocali, la riforma, la controriforma. Esatto. Allora, quindi la prima cosa che mi sento di poter dire è che nessuno in questo dibattito sta commentando gli esiti di quello che sta accadendo. Stiamo vedendo una guerra, stiamo assistendo ad una guerra. E a me, dopo tutte queste discussioni molto molto dotte e qualificate, rimane forse solo la chance di dare la chiave più bieca, più banale, e cioè anche spiegare che un buon modo per capire quello che sta succedendo è capire a chi giova dire certe cose dal punto di vista, per esempio, dell'industria di cui fa parte. Per questo mi capita spesso di dire, anche nel sottotitolo di un libro che ho scritto, che non è il caso di farsi raccontare quello che sta succedendo in internet, di farselo raccontare dalla televisione, di farselo raccontare dai giornali. Perché? Perché per quanto siano i più grandi professionisti, che potrebbero veramente dare una chiave importante, ci sono troppi conflitti di interesse. Stiamo parlando comunque di una industria che sta sostituendo un'altra industria. essendo stato per un po' anche analista proprio di business, cioè io scrivevo proprio dei piani industriali, cercavo di capire se c'erano anche dei soldi per la mia azienda in tutta questa operazione, era guardare anche dentro i bilanci dei giornali. Ebbene, proprio i giornali che oggi dicono dover ripartire dalla qualità per sconfiggere il grave fenomeno delle fake news che sono sempre in mente online, proprio quei giornali, poi vai a vedere nel bilancio e dici: ma quanti soldi questi signori cominciano a fare facendo vendere il loro giornalismo di qualità? Ma vai su, perché adesso pubblica, il Corriere della Sera c'hanno le loro parti a pagamento nell'offerta online, no? Quanti soldi veramente fanno così? E quanti soldi fanno invece raccogliendo pubblicità con il colonnino borboso del gossip a destra che è gratuito? Vai a vedere i bilanci e scopri che praticamente i soldi che fanno vendendo abbonamenti online o l'accesso a contenuti a pagamento è una piccolissima frazione. Non c'è neanche, è tragicamente così rispetto alla quantità di pubblicità che riescono a ottenere invece nell'altro modello di business. Ecco, chi ha veramente il coraggio di fare una grande scelta per la qualità, per esempio il New York Times, che riesce a rendere, fa paywall dopo 10 articoli, credo al mese, mi pare di capire, dopo 10 articoli sono anche abbonato per un certo periodo, puoi vedere tutto il New York Times e scopri che dalla prima lettera all'ultima lettera di ogni articolo è qualità. Ieri è uscita una infografica animata che ha spiegato per la prima volta ai genovesi come è caduto il ponte Morandi. E l'ha fatto, ce lo siamo fatto dire da New York Times, proprio come ieri ci siamo fatti spiegare da Starbucks come si fa il caffè. Loro hanno spiegato la storia italiana in un modo che i nostri modelli di business non è sostenibile pagare un'operazione fatta così bene nell'informazione ufficiale online italiana. Non lo è. Perché ancora la prospettiva per i nostri grandi media outlets non è trovare una nuova missione dell'ecosistema digitale, ma sopravvivere, far arrivare alla pensione un sacco di cinquantenni, di sessantenni che stanno lì e che lavorano e che non hanno nessuna intenzione di cambiare mestiere, di imparare cose nuove. Io spero per la vostra salute che non abbiate mai partecipato ai corsi di aggiornamento di assegno di crediti per chi è iscritto all'ordine, perché ma quando capita la fortuna di trovare qualcuno che sa le cose, però poi alla fine scopri che in quei corsi impari la difesa del vecchio e non il rischio di imparare il nuovo, non c'è niente da fare. E allora tutto questo per dire che cosa? Che se la prospettiva per i nostri media, parlo dei media italiani, è la sopravvivenza, e c'è qualcun altro invece che ha costruito davvero tutta una nuova grande scommessa sulla qualità online, ho fatto l'esempio del New York Times, ma ci sono anche modelli completamente diversi come quello del Guardian, per esempio, che invece cerca ottenere soldi attraverso un'adesione volontaria, un modello di lettore che c'è un nuovo patto per la qualità, però anche per la democrazia dell'informazione. Sono cose complesse, ma vedete, quando andate al festival di Perugia tutti gli anni, al festival del giornalismo, e ascoltate i panel del mondo anglosassone, sembra di stare a un altro festival. I nostri panel, dove ci sono i grandi decani del giornalismo italiano, passano un'ora davanti al microfono a dire tutto il disastro dell'informazione è colpa di internet, e poi appoggiano il microfono e se ne vanno e si ritornano nelle loro redazioni. Mettete il naso, aprite una porta dell'hotel Trufani, entrate in un panel dove ci sono soltanto giornalisti stranieri e scoprite un altro mondo di gente che prova a vedere come si fanno soldi in altro modo, puntando sulla qualità dell'informazione. Allora, perdonate, capisco tutta la crociata sulle fake news e capisco che ci sono dei grandissimi problemi, un tema, il libro li ha raccontati veramente bene, ma non ascoltiamo prediche da chi il giorno dopo la strage di Piazza Fontana titolava 9 colonne che era stato un ballerino anarchico, che l'avevano già preso. Non prendiamo lezioni da chi, quando viene clonata Eva dalla Clonide, fa un titolo a 9 colonne e dice: è stata clonata una bambina. E poi due settimane dopo, quando ormai in tutto il mondo si è capito che è una bufala, inviti la Brigitte Bosserie della Clonide a porta gli fanno interviste di loro, perché tanto è infotainment, perché tanto funziona, perché tanto hai venduto gli spazi pubblicitari. Ed è quello il modello. Non prendiamo prediche da questo tipo di modello. Ecco, io sulle fake news un po', perché ci sarebbe da andare avanti parecchio, ma vorrei far fare un'altra domanda ad Antonio, insomma, qui anche lui. Benissimo, grazie. Applauso. Allora, per riepilogare, così andiamo verso la fine, diciamo, il tema che ha sollevato adesso Antonio, poi non so se Mario Borsellini vuole dire qualcosa su questo, ma, diciamo. Un modello di fine. No, più che altro sui tempi. No, perché è un punto che poi chi adesso metto il nostro lavoro attuale sta in un'autorità per le garanzie nelle comunicazioni che nasce da una precisa normativa, peraltro di delegazione europea, che ha il campo limitato di radio e TV, quindi non assolutamente la stampa e non il web, se non in alcune forme che adesso dirò, si pone quotidianamente questo tema, cioè si pone quotidianamente il tema di dire noi in teoria dobbiamo avere, secondo la normativa, sta però per un'attenzione intanto per il servizio pubblico che ha degli obblighi ulteriori rafforzati sul concetto di informazione veritiera, informazione plurale, rispetto della diversità, rispetto della dignità persona, rappresentazione della diversità della società, e addirittura come fa la BBC e come fanno anche molti network americani senza alcuna normativa che li obbliga, promozione della diversità. Cioè noi non soltanto abbiamo una normativa che ci dice di tutelare la diversità, ma di promuoverla, quindi di avere delle fiction che fanno vedere nuove forme di diversità, di integrazione sociale, eccetera, eccetera. Quindi addirittura un elemento propositivo, questo è il mandato, diciamo così, delle direttive. Ci poniamo questo tema perché ce lo poniamo già nei media tradizionali, e tante iniziative che abbiamo fatto, sia di moral suasion, sia proprio dei nostri atti, ci sono stati nei confronti di trasmissioni televisive, anche di informazione, che in alcuni casi facevano infotainment intervistando il figlio di un boss su Rai 1, senza, perché presentava un libro, ma senza spiegare che in realtà era un condannato per mafia, era tutto affiliato, nei confronti di alcune trasmissioni che per diversi anni quotidianamente avevano, diciamo così, una sovraimpressione, attacchi contro i migranti che neanche la peggio, diciamo, fake news sulla rete, cioè ci rubano le cose, vanno a casa, come facciamo, finti capannelli organizzati, sono stati per anni queste cose in Italia, e l'autorità con i limiti della sua attività di istruttoria, deve essere oggettiva, eccetera, eccetera, ha affrontato questo tema. Quindi diciamo sicuramente quello che tu adesso hai aggiunto, cioè che non è un problema sociale che coincide ex ante ed ex post con il mezzo internet, con la rete e così via, non c'era prima, non c'è sempre stato e non c'è peraltro tuttora peraltro con un elemento che noi notiamo addirittura rovesciato, cioè che la televisione, io parlo della televisione e della radio perché su quello noi abbiamo dei poteri, su quello perché in passato radio e TV, essendo trasmesse grazie a un etere che era una risorsa economica scarsa, avevano bisogno, in Italia come nel resto del mondo, di un regolatore che assicurava il pluralismo, non essendo possibile la concorrenza, no? Derivante da altri mezzi. Nei confronti della stampa ci sono altre forme, diciamo così, di controllo normativo che hanno più a che fare con la proprietà incrociata, ma non entrano nel contenuto, perché l'idea è che in un mondo, diciamo, economico che funziona, chiunque può aprire un giornale, mentre chiunque non può aprire o non poteva aprire un emittente televisivo. Quindi le questioni che tu poni ci sono nel mondo tradizionale, sono anche aggravate dal fatto che la TV spesso imita il web. Abbiamo queste trasmissioni, tu che sei un autore televisivo, che vogliono essere moderne, quindi vediamo cosa dice internet, infatti mandateci un Twitter, eccetera, che in qualche modo avrebbero bisogno di digitalizzazione, come dici tu, perché sostanzialmente non hanno neanche capito che la televisione non può essere semplicemente quella che sposa la telecamera sul web per essere moderna e per avere successo. Però tutte queste cose che voi avete detto mi riportano a due questioni. Una, così poi vi dico alcune cose e poi vi chiedo una battuta finale brevissima, alla questione del libro di Matteo. Cioè la domanda è, sappiamo quanto è complesso questo tema, ma siamo tutti d'accordo che lo status quo, che non è l'esito, ma il momento che noi osserviamo, non ci soddisfa? Cioè questa cosa la possiamo dire, perché è interessante la risposta a questo, perché 3 anni fa non l'avremmo data, 4 anni fa non l'avremmo data, 5 anni fa, cioè eravamo nella fase in cui, vi ricordate, le grandi battaglie sul copyright online, nel senso c'è l'idea proprio di difendere la rete come spazio di libertà, e poi gli americani, perché loro hanno questo discorso del marketplace per Diaz come ricerca della verità, hanno detto loro, no? Noi in Europa, in Italia non ci permetteremo mai di dire che la concorrenza e la libertà nella richiesta di informazioni ci permette di raggiungere la verità, non appartiene alla nostra gruppo, diremmo ci permette di difendere la nostra dignità. Invece gli americani dicono no, il marketplace of ideas si raggiungerà la verità. Ecco, se però questo è il punto di partenza, cioè lo status quo qualche problema ce lo pone già, questo secondo me, fermandoci qui, perché poi lui cita anche tutta una serie di iniziative, già questo è un risultato, come dire, dal quale partire. Dopodiché, quali sono le risposte? Possono essere di vario tipo, non abbiamo citato alcune, abbiamo citato l'autoregolazione, abbiamo citato le leggi che esistono, l'autorità ha avviato un tavolo, l'abbiamo chiamato tavolo tecnico di autoregolazione, quello che ha invitato tutti, cioè non soltanto Twitter, Facebook, Google, ma anche gli editori italiani, coloro anche fanpage, vuol dire anche i giornalisti, la federazione della stampa, eccetera, eccetera. Peraltro, qui lo possiamo dire, è interessante perché noi stessi come autorità siamo stati oggetto di una fake news che è nata, diciamo, da parte di alcuni giornalisti, adesso non voglio aprire la questione, su un'interpretazione della nostra regolamento della par condicio, secondo la quale noi avremmo a un certo punto obbligato tutti i soggetti della televisione, ogni volta che c'è un argomento, di fare il contraddittorio sempre su tutto, quando invece noi avevamo detto nei format in cui è previsto un contraddittorio assicura che sia fatto bene. Ma chiudiamo, questo vuol dire che di fake news ne siamo molto esperti. Qual è il punto un po' che emerge? Il punto che emerge è che noi adesso ci stiamo muovendo in una fase di autoregolazione. E l'elemento che vorremmo far venire fuori, oltre quello che è stato citato prima, cioè di capire perché non funzionano le misure di autoregolazione che questi soggetti mettono in campo, è anche quello di poter dire ad un legislatore qualcosa di molto più semplice che possa andare, lasciatemi dire, in amicus curiae, come si dice, con la magistratura, per i vari temi, dal cyberbullismo, le notizie false, la diffamazione, i discorsi d'odio, cioè devi dare a un soggetto terzo il potere di inspection, cioè la possibilità di andare a vedere cosa sta succedendo, come tu stai lavorando, cosa, come stai applicando le regole che tu stesso ti sei dato. Perché noi oggi tutte queste informazioni le abbiamo, lui ha citato un bel esperimento di carta di Roma, ma non siamo in grado di avere un soggetto terzo che possa andare semplicemente a certificare che ciò che questi soggetti dichiarano di fare effettivamente lo fanno. Aggiungo che ci piacerebbe moltissimo, qui cito, diciamo, anche il professor Morcellini più come professore che non come commissario, me stesso e voi, ci piacerebbe anche che questa inspection permettesse a chi studia questi fenomeni di poter disporre di questa enorme capacità di dati che c'è per andare a fare sui social network quello che molti economisti, sociologi e così via hanno fatto sui media tradizionali, cioè andare a fare delle analisi econometriche di misurazione su causa e effetto sulla possibile distorsione effetto anche a fini elettorali, per esempio, di una certa distorsione dei media. Stefano Della Vigna, che è un economista molto bravo, è l'unico che ha pubblicato sul Media Economic Review l'unico articolo che dimostra che c'è una relazione fra l'ingresso di Fox News negli Stati Uniti, è l'incremento della destra. Perché c'è riuscito? Perché ha fatto l'unico studio che ha misurato in una certa area, un esperimento naturale, prima e dopo, quando Fox News è entrata attraverso il cavo in una zona dove prima non c'era, quindi ha potuto analizzare l'orientamento di quegli elettori prima e dopo l'ingresso di Fox News. Allora, per fare questi studi sulla rete abbiamo bisogno di poter avere questo accesso. Facebook in parte lo sta facendo. Devo dire la cosa che a noi al momento non soddisfa completamente è che lo ha fatto con un comitato di professori eccetera eccetera americani, coinvolto anche delle persone dell'Università di Urbino, però diciamo, ecco, anche le autorità, anche soggetti terzi in qualche modo possono essere coinvolti nel disporre di questi dati, nel sapere se effettivamente il fatto che una certa notizia abbia girato molto se ha prodotto degli effetti anche di tipo elettorale. Questo non è difficile da misurare, se avesse accesso a dei dati, a dei microdati anonimizzati, sarebbe possibile fare questo tipo di studio. Allora ne sapremo di più anche sulla domanda se queste questioni rivelano un'autoselezione, e quindi noi siamo impressionati dal vedere cosa dice la gente, ma non è un fatto che deriva dall'interazione con altri, semplicemente la gente, noi scopriamo che dice questo perché lo leggiamo sulla rete, ma è il suo pensiero del suo bar che stava prima, cioè è un meccanismo di trasparenza e autoselezione, ma niente di più di questo. Oppure se invece si produce un effetto di amplificazione, di distorsione, di camere di eco, eccetera, eccetera, e quanto questo sia rilevante. Tutto questo per dire che c'è bisogno di studiare questo fenomeno, e secondo me le autorità però devono essere messe in condizione di riuscire, per un discorso di linguaggio che facevi tu, a capire come affrontare di nuovo. Cito solo una cosa che non abbiamo detto nelle nostre, diciamo, tutti i temi che abbiamo toccato. Voglio citare questi due, diciamo così, antropologi americani che si chiamano Sloman e Fairbank, che hanno scritto diversi studi, questo libro pubblicato qualche anno fa che si chiama The Illusion of Knowledge, che è un altro pezzetto di spiegazione che poi si intreccia con il discorso del populismo, della competenza, eccetera, eccetera. Sul discorso fake news, cioè loro hanno fatto diversi esperimenti, ma il punto fondamentale di accusa che fanno la rete, quindi diciamo va fuori il discorso, al di là del discorso da cui siamo partiti, cioè che la rete in qualche modo va imputata, loro dicono il problema delle persone è che questa possibilità di grande accesso alle informazioni in realtà come dire, ci ha reso più self-confident, e anziché trasformarci maieuticamente in disperati, lo c'è sulla rete, dici ma quante cose non so, invece l'idea, come dire, del supermercato, io qui posso trovare risposta a tutto, e questo elemento è un elemento che secondo alcuni esperimenti che hanno fatto sembra alimentare confidence, la sicurezza in se stessi e quindi nelle proprie capacità, nella propria competenza, e anche la polarizzazione delle idee, cioè la circostanza che Internet sia come un frigorifero dove io faccio una domanda, prendo quello che trovo, che mi interessa, mi permette di non avere bisogno di chiederlo ad uno che intermedia, sia esso il politico, sia esso l'esperto, sia esso. Allora, questa knowledge illusion, loro l'hanno misurata in vari esperimenti che adesso non vi dico, ma la cosa interessante e che in diversi esperimenti loro arrivano alla conclusione che man mano che rivelano i soggetti, facendo ripetutamente questionari, quanto sia sbagliato quello che loro affermano su una serie di questioni, quanto più loro dicono aumenta l'umiltà e si riduce la polarizzazione. Cioè loro fanno una serie di domande su varie questioni e man mano però fanno scoprire a queste persone quanto errore hanno fatto rispetto ai fatti verificabili, e questo aumenta la disponibilità ad ascoltare gli altri e a ridurre la polarizzazione. Ora qui io non so quale possa essere, diciamo così, la soluzione, forse si rifà al discorso che facevi tu, però c'è questo elemento che spesso non viene tirato fuori, su cui effettivamente la facilità di acquisire informazioni e di avere overload informativo può generare questa illusione della conoscenza, che poi è un rifiuto della competenza, che poi alimenta la polarizzazione e che poi ti porta, e questo è il mio grande cruccio, ad avere delle situazioni in cui quando io ti dico guarda che quella cosa che tu pensavi fosse vera è falsa, e questo vale molto, ma non apro questo capitolo per il discorso del hate speech, perché l'hate speech per definizione si basa su fake news, qui l'apro e qui la chiudo. Non sempre dall'altra parte qualcuno mi dice oddio quanto sono stato stupido, è vero, mi arrabbio con quelli che mi hanno preso in giro. No, nasce poi il complottismo. Se tu mi stai dicendo che questa notizia non è vera, ma in realtà tra l'ammettere di essere stato preso in giro e invece difendere la mia posizione e la mia sicurezza, preferisco dire che il fatto che magari un soggetto autorevole mi dica che quella notizia è falsa, di fatto alimenta la mia convinzione che sono di fronte a un complotto. Allora, tutte queste cose sono, diciamo, e quindi vi do l'ultima domanda a ciascuno di voi, diciamo, una serie di studi recenti che in qualche modo dimostrano che il problema c'è all'origine, ma che in qualche modo la rete c'è rispetto ai media tradizionali, perché ti permette questa, diciamo, illusione della sicurezza, che effettivamente nella misura in cui è legata a maggiore polarizzazione, maggiore sicurezza di sé, è esattamente il contrario dell'approccio che dicevi tu all'inizio, cioè vado su internet per verificare, per falsificare, per controllare. Allora, in realtà io continuo a essere invece convinto che anche rispetto a questo tipo di deriva, io parlo proprio dell'illusione di sapere nel libro, anche in relazione a Wikipedia, che poi è un po' la prima fonte mainstream da questo punto di vista, in realtà anche qua si torna con i temi della cultura e con i temi dell'information literacy. Perché? Perché se io sono una persona comunque consapevole, se io sono una persona che ha delle capacità di analisi, so anche che magari posso andare su Wikipedia ad informarmi estemporaneamente su che cos'è il motivo, ma quello non mi farà mai sentire autorizzato a fare delle riflessioni sul morbillo come se fossi un medico, o a sostenere delle teorie sulle quali io non ho degli studi, delle competenze. E qui anche c'è un mezzo di campo culturale, cioè o io quella capacità cognitiva ce l'ho, quindi so che anche quel tipo di informazione però non è autorizzata, oppure non è il problema internet e la sovrabbondanza di informazioni, ma l'incapacità di relazionarsi con quel tipo di informazioni e con quel tipo di contesto. Quindi secondo me si ritorna comunque ai temi della cultura e non se ne esce. D'altro canto c'è stata prima quella bellissima citazione dell'internet che ti meriti, e ve la racconto perché è anche una coincidenza divertente. Noi quest'anno porteremo a Perugia la festa della rete, che è questo grande evento sui temi del web, a novembre, e il claim che abbiamo deciso di dare alla festa della rete è proprio la rete che ti merita, perché riassume in realtà tutto, cioè è veramente il contesto, è veramente il modo in cui noi impariamo, capiamo che il web si può utilizzare, quello che è in grado veramente di fare la differenza. Poi ognuno si crea il proprio contesto, il proprio habitat, il proprio ambiente. Poi ci sono i temi obiettivi, la polarizzazione, le camere dell'eco, ci sono dei sistemi e dei meccanismi che avete sicuramente alimentano determinate problematiche, però appunto, secondo me, questa famosa rete che ti mette. E chiudo con un'ultima riflessione che secondo me dà un po' anche la testa al toro delle fake news. Le fake news, al di là del fatto che possono essere un termine abusato, in qualche modo spontaneo, quello che vogliamo, però a monte c'è un aspetto che spesso sottovalutiamo quando noi parliamo di fake news. Allora, non è detta, perché ci possiamo cadere tutti, su uno ci ha scritto un libro, c'è che c'è comunque passato una fake news, una volta forse anche un paio, però in realtà c'è una cosa che ci dimentichiamo sempre di sottolineare. Il problema è come ci relazioniamo noi di fronte alle notizie, non è tanto il fatto che la notizia sia falsa o che a quella notizia falsa noi possiamo credere, il problema è un altro. Noi dovremmo imparare, da un punto di vista di educazione digitale in questo senso, che non va mai rilanciato, non va mai condiviso nulla se non siamo prima sicuri che quello che stiamo condividendo è vero. Questo smonterebbe qualunque tipo di catena viziosa e malata. Il problema non è più chi introduce la falsa notizia sul mercato, chi ci crede e chi non ci crede, il problema è la condivisione. Ma se io niego, che se io capisco che quello di cui non sono sicuro non va condiviso, io potrei iniziare a sbagliare. Vediamo qua un altro cenno e tanto siamo d'accordo per sì. Continuiamo la